a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 21 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, e la domanda che mi faccio oggi mercoledì 8 marzo 2017 è una domanda molto semplice: ma le donne di oggi, ma lo sanno perché oggi è la festa della donna? Cioè, un po' ci pensano, oppure interessa solo girare per locali a fare baldoria, a non pensare alla vita di tutti i giorni, a fare finta di magari essere qualcun altro, quasi come un carnevale, pur di festeggiare una delle giornate? Perché io mi ricordo che quando anche ero già un po' più piccolo, forse oggi un po' meno, non lo so, però quando ero un po' più piccolo era molto comune per le donne. Allora, la prima cosa era: stasera usciamo da sole, andiamo a mangiarci una pizza, andiamo a fare una passeggiata, andiamo in un locale, andiamo a ballare. Bene, ok, tutto legittimo, ci mancherebbe altro. Però allora, uscite da sole per rivendicare il vostro, la vostra dignità nei confronti dell'uomo, che chiaramente questo sarebbe la festa della donna. Alla fine la festa della donna è stata istituita per commemorare, per celebrare la donna, per dire no alla violenza sulla donna, per i diritti ricevuti, ottenuti dalle donne. Mentre invece a volte a me mi sembra che le donne, diciamo, facciano cadere di importanza proprio la festa che le riguarda. Alla fine cosa fanno? Magari vanno, io mi ricordo, andavano nei perlocali a sbavare dietro a tre o quattro corpi di uomini in slip muscolosi. E allora, se il rivendicare, se l'importanza, se il femminismo passa per andare in locali a fare, perdonatemi il termine se mi volete perdonare, altrimenti non mi perdonate, ma io lo dico, a fare le maiale nei locali, a strusciarsi o a urlare, il classico urlo alla vista di un corpo a torso nudo e un paio di slip, vabbè. Se vi siete scelti il marito che c'ha la panza e non vi piace più, lasciatelo. Non sarebbe molto più semplice? Se vi siete inchiodati a una situazione che non vi piace, se la vita familiare è vista stretta, cambiatela, fate qualcosa tutti i giorni per cambiarla. Non fate l'8 marzo le maiale, lo ripeto, tanto ormai se mi avete perdonato, altrimenti non mi perdonerete nemmeno questo, ma è uguale, ormai non avrò il vostro perdono. Non fate questi versi una sera all'anno per portare fuori il vostro orgoglio di essere donna. Ah sì, questo sarebbe da essere orgoglioso di essere donna, ma si scherza davvero? Cioè, il vostro orgoglio di essere donna dovrebbe essere di non accettare salari inferiori a quelli degli uomini nello stesso posto di lavoro, con lo stesso livello di categoria e tutto quanto. Sarebbe quello di non accettare e di denunciare con forza ogni singola violenza, domestica o non, che subite. Questo è non piegare la testa quando un marito padrone magari alza le mani, oppure quando un marito padrone fa quello che gli pare non rispettando il dovere coniugale. Perché chiaramente io, come dico a voi, se non vi piace la vostra vita in famiglia, se non vi piace il vostro marito, e lo dico agli uomini, e se non vi piace la vostra, lasciatela, mollatela e fatevi la vostra vita, e forse troverete una persona migliore. Oppure se vi siete presi la prima che passava, o voi donne vi siete presi il primo che passava, perché a un certo punto l'orologio biologico della donna sente il bisogno magari di diventare madre, sente il bisogno di fare delle cose che si fanno più o meno quasi esclusivamente se abbiamo famiglia, e poi dopo magari qualche anno vi siete pentiti, allora signori miei, non è fare questi versi per l'8 di marzo che vi salverà. Perché farete sì il delirio che vi pare questa serata, e poi quando finisce passerà un anno affinché possiate fare un'altra volta la stessa serata, e nel mezzo cosa c'è? Il niente, ci sono i tradimenti, ci sono le incomprensioni, ci sono le litigate, ci sono le botte, e chiaramente a volte ci sono gli omicidi, perché non ci dimentichiamo gli omicidi familiari non sono pochi, in Italia e nel mondo in generale. Quindi volevo dire, ma chi ci si sta prendendo in giro? Aboliamo la festa della donna, perché i diritti delle donne non hanno bisogno di una festa di un giorno, che, ma i diritti delle donne sono sacrosanti e devono essere portati avanti con forza da chiunque tutto l'anno. Come chiaramente aboliamo i diritti, che ne so, il primo maggio, aboliamolo, ma che ce ne facciamo del primo maggio ormai, in un mondo che è conclamato, che il sistema di lavoro, il modello di lavoro che ci hanno inculcato ai nostri genitori, e quindi ci hanno inculcato a noi, perché secondo loro, in buona fede, ci mancherebbe, è il modello migliore. Ormai lo sappiamo che è fallimentare il lavoro, chiaramente non c'è per tutti, forse siamo troppi, forse c'è poco lavoro e le macchine lo stanno bypassando, addirittura sembra che da McDonald's o comunque in altre catene di fast food i robot lavorino al 100%, non ci siano più nessun tipo di inserviente essere umano con nessun tipo di mansione. Quindi, ma di che si sta parlando? Della festa della donna, della festa del lavoro? Ma questo a me mi sembra tutto un grande carnevale. È il carnevale che è appena finito la settimana scorsa. E quello è semmai, ma non il carnevale inteso come è inteso alla nostra maniera, come anche i miei genitori o i genitori di tante persone che io conosco ce l'hanno. Sì, è carnevale, per tre volte ti vesti da zorro, per tre volte ti vesti da uomo tigre e finisce lì. Sì, non è così. Il carnevale ha un'importanza sociale incredibile, ma le stiamo perdendo queste cose, e stiamo perdendo quello, stiamo perdendo il valore della festa della donna, come il valore della festa del lavoro e tutte le altre cose. Stiamo perdendo ogni cosa, stiamo perdendo tutto. È una società che corre, scappa, fugge, e queste sono cose che restano indietro. E le donne, purtroppo, come 100 in Italia 1922, in Italia 1922 la data della prima festa della donna, ma la prima festa della donna in generale mi sembra 1910 o 1911, quindi 107 anni fa quelle signore si sono battute, hanno avuto da che lottare per affermare, per avere il diritto di voto a New York nel 1910-11. Hanno dovuto lottare per quello, per un lavoro, per avere un lavoro dignitoso, cioè per la dignità, non tanto per avere il lavoro, ma per la dignità. E oggi tutte le donne che fanno questa dignità, che l'hanno costruita e su quale è fondato lo spirito di questa celebrazione, se la perdono in tre minuti di urli intorno ad un uomo muscoloso e unto. Ma vi siete ribevute il cervello? E poi tutto il resto dell'anno? Zero. Va bene. E allora, se vi sta bene così, se vi piace vivere in questo modo così naif, mettiamola così, bene, allora, ma non vi lamentate, eh? Non vi lamentate poi se un botto di donne all'anno vengono picchiate, perché non è facendo l'8 di marzo in questo modo che si difendono i vostri diritti e i diritti delle donne. Io sono uno di quelli che sarà sempre in difesa dei diritti di chiunque, e ci mancherebbe, non ci penso nemmeno a pensarla in un altro modo. Però se poi le cose non vi tornano, ve la siete anche cercata da un certo punto di vista. Quindi pensate bene a quello che fate, ma tutti i giorni, non solo la sera dell'8 di marzo, perché se tutti i giorni fate le cose fatte per bene, l'8 di marzo non ce n'è nemmeno bisogno, viene da sé. Se l'uomo, chiaramente chi esercita il sopruso nei confronti della donna, quindi l'uomo di solito, a volte un'altra donna, ma insomma, diciamo normalmente un uomo, se quest'uomo che vi sopraffà viene fermato tutto l'anno, ma che ci avete bisogno di andare una sera l'anno a sgallettare? Potrete farlo in qualsiasi giorno dell'anno, quando vi pare, non è quello il problema, ok? E io, ad esempio, camminando per strada ho incontrato una signora che avrà 90 anni ormai, io me la ricordo quando ero bambino, era già vecchia, che quando si era bambini ci ha più o meno accudito tutti, andavamo in un'associazione e lei faceva parte di questa associazione, e insieme ad altre signore che avevano la sua età, noi eravamo ragazzetti, dico bambini, forse un po' più grandi che bambini, 13-14 anni, e ci guardava, ci sgridava, ci faceva capire le cose, e ci ha fatto praticamente come da seconda nonna, diciamo da terza nonna. Due nonne erano quelle di sangue e anche lei ci ha messo del suo. Allora, quando io vedo questa persona, e l'ho vista pochi giorni fa in giro per le strade del mio paese, appena l'ho vista, che io la vedo una volta ogni tanto, mi si è riempito il cuore di gioia. Queste sono le donne, queste sono le donne, quelle che quando passano nella tua vita ti lasciano qualcosa, ti lasciano l'essere donna, perché non ci nascondiamo noi uomini dietro un dito della forza bruta che distruggerà tutto quanto, col diavolo che farà così. Non è così, è la donna che ha un'empatia particolare nell'essere umano, nel genere umano. La donna è la generatrice, e quindi è lei la generatrice delle cose belle e delle cose brutte. Purtroppo voi donne di oggi ve le state un po' mandando a farsi fottere tutte queste qualità che ci avete, perché non le sapete riconoscere. Ma non è nemmeno colpa vostra, non è che sono qui a colpevolizzarvi. Ci vuole un po' più di coscienza, ci vuole una presa di coscienza superiore, che c'è lo stato delle cose di oggi raramente permette di fare. Ma cercate, sforzatevi di ritrovare l'essenza dell'essere donna e vedrete che tutto andrà incanalato in un sentiero che è naturale. Tutto il resto è innaturale, è tutto forzato, compreso l'urlo che farete stasera di fronte all'ennesimo uomo nudo e unto che vi si presenterà davanti con delle forme sotto gli slip che non si sa nemmeno se sono vere o se sono finte. Bene, care donne, amiche del vagabondo, e cari uomini, amici del vagabondo, come sempre io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo. E per questa settimana, come sempre, il consiglio è lo stesso, ma al femminile: siate sagge!